Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Spero che non siate superstiziosi, perché questa sera ci occupiamo di cimiteri, ahimè. Pare che tutte quelle lucine consumino un bel po' di corrente elettrica e siano tutt'altro che facili da mantenere, ossia da mantenere accese. Per dare un'idea, la bolletta elettrica di un cimitero supera facilmente le decine di migliaia di euro. Una soluzione a dir poco sorprendente è venuta fuori non molto tempo fa e sta iniziando a diffondersi. È un sistema inventato e prodotto dalla 3E Lighting, azienda friulana nata proprio intorno a questo sistema di illuminazione votiva di cui stiamo per parlare e che ne detiene il brevetto. Beh, i nostri ascoltatori sanno che raramente a Mr. Kilowatt facciamo i nomi di aziende, ma in questo caso siamo davanti a una soluzione decisamente unica nel suo genere. Do quindi il benvenuto al nostro ospite, Fausto Delpin, titolare di 3E Lighting. Buonasera Delpin. Buonasera a lei. Dunque Delpin, normalmente in un cimitero su ogni lapide c'è una piccola lampadina che è soggetta, insomma, anche a rompersi facilmente. Abbiamo già detto dei consumi, ci spieghi allora come è fatto il vostro sistema. Un cimitero praticamente tipo utilizza per ogni singola lapide una lampada votiva di tipo tradizionale oppure a LED. Questa lampada consuma intorno ai 3 watt, il LED consuma intorno ai 0,5 watt. Noi per ovviare praticamente a questo tipo di consumo abbiamo creato un sistema che si avvale delle fibre ottiche e di ottiche speciali che permettono a un singolo LED di illuminare 36 lampade votive. Quindi anche nel caso dell'illuminazione con LED si consuma un ventesimo. In più, con questo fatto che voi mandate in giro delle fibre ottiche, mandate in giro della luce, quindi non della corrente, immagino che sia tutto più semplice, non solo da mantenere, ma anche in termini, diciamo, di sicurezza o comunque di compatibilità con la situazione. Proviamo a dare qualche numero: quanto si risparmia in termini di energia e quanto si risparmia in termini di manutenzione? Allora, per quanto riguarda i termini di manutenzione, facciamo un esempio su 1000 lampade. 1000 lampade, quindi anche 1000 lapidi. Esatto, 1000 lapidi e 1000 votive. Ogni praticamente lampada in un anno deve essere sostituita 3 volte, perché la durata della lampadina è breve. Di conseguenza, se noi facciamo una valutazione su 1000 lampade, in un anno ci sono 3000 sostituzioni, in 10 anni ci sono 30.000 sostituzioni. Perfetto. La lampada LED non ha questa peculiarità. Se poi viene trasformata in un impianto come quello praticamente da noi brevettato, 1000 lampade si trasformano in 27 lampade in realtà, perché le 27 lampade attraverso la fibra ottica le illuminano tutte. Perfetto. Però la manutenzione di queste 27 lampade si fa dopo il decimo anno. Significa che io ho fatto 30.000 interventi manutentivi per cambiare le lampadine contro 27. Quindi, insomma, praticamente non c'è manutenzione. Dal punto di vista energetico? Dal punto di vista energetico, una lampada normale consuma 3 watt. 1000 lampade mi danno un risultato di 3 kilowatt. 3 kilowatt trasformati nel nostro tipo di impianto diventano 27 watt. Perché avete 27 LED da un solo watt, quindi siamo 3000 watt contro 27 watt. Insomma, siamo nell'ordine del 99% di risparmio, che è un numero abbastanza impressionante. Mi pare che ci sia un impianto di questo genere o ci stiate lavorando a Monza? Allora, impianti di questo genere ce n'è a Pordenone, ce n'è nel Pesarese e ce n'è il primo sperimentale è stato realizzato praticamente a Monza ed è in funzione dal 2004, senza rotture, senza problemi di sorta. Ecco, mi dice quanto è scesa la bolletta del cimitero di Monza? Si parlava praticamente di una bollettazione che si aggirava intorno ai 160.000 euro ed è diventata intorno ai 700 euro. Ecco, va bene, da 160.000 a 700. Credo che questo numero dica tutto. I tempi di rientro io glieli chiederei, ma credo che venga fuori un numero assurdo, qualche mese probabilmente. Le chiedo invece un'altra cosa. Cosa stava facendo quando le è venuta in mente questa idea? Noi facciamo sistemi di illuminazione a LED in genere, risparmio energetico in genere. Cioè è stato chiesto praticamente di realizzare qualche cosa di coreografico per un cimitero monumentale. Io ho iniziato a realizzare dei calcoli e poi dalla coreografia, utilizzando già la fibra ottica, sono riuscito a risalire praticamente a quella che è l'idea base per poter rifare il risparmio energetico. Insomma, è partito da un problema di scenografia. Esatto, però il difficile poi è stato farlo funzionare, perché con un LED a bassissima luce praticamente, se non si realizzano delle ottiche speciali e se la fibra ottica non è calibrata per trasportare quella frequenza luminosa, non si riuscirebbero a realizzare questo genere praticamente di risultati tecnici. Di livelli di efficienza. Va bene, grazie del PIN. Prego, buona giornata. Bene, chiudiamo con una breve riflessione. Il caso di cui abbiamo parlato stasera è indubbiamente uno di quelli emblematici. Emblematici di come in realtà l'efficienza energetica rimanga un territorio che in gran parte è inesplorato. Un luogo che in oltre un secolo di combustibili fossili a basso costo, cioè sin dall'inizio della rivoluzione industriale, pochi, veramente pochi si sono dati la pena di esplorare. Altrimenti non si spiegherebbero casi come quello che abbiamo appena visto. Mr. Kilowatt si chiude qui, domani andiamo a vedere cosa hanno combinato alla Coca-Cola per tenere sotto controllo i consumi energetici. Buona serata.